Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù si ritirò nella Galilea, lasciò Nazareth e andò ad abitare a Cafarnao, sulla riva del mare, nel territorio di Zabulon e di Neftali, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. Terra di Zabulon e terra di Neftali, sulla via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti, il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce. Per quelli che abitavano in regione e ombra di morte, una luce è sorta. Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino». Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo. Gesù oggi inizia il suo ministero di predicazione ed è riconosciuto come la luce dei popoli, la luce delle genti. Qui dice: «Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce, per quelli che abitavano in regione ombra di morte una luce è sorta». Gesù è paragonata alla luce. Se ci fate caso, la luce non si può vedere, però la luce permette di vedere ogni cosa. Ecco, Gesù noi non lo possiamo vedere, però il credere in Lui ci permette di vedere ogni cosa e di capire il senso di ogni cosa. Ma che bello sapere che abbiamo questa possibilità di andare avanti, di conoscere perché viviamo e avere quella pace, quella serenità del cuore. Quante persone vivono nel buio, quante persone non hanno questa luce, e vivere nel buio, non avere la luce, vuol dire molto spesso è sinonimo di caduta, di inciampare, di avere l'ansia, di avere l'angoscia, e sono tutti vocaboli, tutti termini. Quando manca la luce usiamo tutti i termini: angoscia, ansia, inciampare, tutti i termini che molto negativi. Perché le tenebre non piacciono a nessuno, le tenebre fanno paura, perché appunto non ci permettono non solo di vedere, ma addirittura di vivere. Senza la luce non si vive, senza la luce non si ha gioia. Ci sono paesi dove la luce è poca e la gente è molto depressa. La luce è un elemento che porta vita. La fotosintesi clorofilliana è necessaria per ossigenare l'universo, quindi senza la luce non c'è vita. Ed è interessante che la prima pagina della Bibbia, la prima cosa che Dio crea è la luce, fiat lux, dice Dio, e la luce fu. E poi l'ultima pagina della Bibbia dice che il Signore sarà la nostra luce, dice che nella Gerusalemme celeste non avranno più bisogno di uomini di luce di lampada, né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli. Ecco, la luce è un elemento che è presente dalla prima all'ultima pagina della Sacra Scrittura. La luce è importante non solo per illuminare, non solo per dare gioia, ma soprattutto è essenziale alla vita. Senza luce non si vive. Quindi è bellissimo che Gesù è paragonato alla luce e la sua predicazione è luce, lampada per i miei passi è la tua parola, luce al mio cammino. Quando abbiamo la parola di Dio abbiamo il cammino illuminato, e la luce è simbolo anche di salvezza, di salute. La parola stessa salute deriva proprio da luce, salute viene da satis lux, abbastanza luce. E infatti quando uno ha la salute, sia fisica sia spirituale, è luminoso, la pelle è luminosa. Quando avete la salute del corpo siete luminosi, quando avete la salute dell'anima siete pieni di luce, i vostri occhi sono risplendenti di luce, perché la luce è simbolo, ma è segno di salvezza, è segno di salute. E allora oggi facciamo il proposito di rivolgere il nostro sguardo verso la luce. La luce appunto non la possiamo guardare, però ci permette di vedere ogni cosa, e la luce non si può nemmeno riprodurre. Gli artisti, i pittori lo sanno molto bene, non si può riprodurre la luce, ma si può rendere la luce attraverso il colore. Allora anche noi possiamo essere il colore di Dio che fa vedere la luce al mondo, che fa vedere Gesù al mondo. Allora per concludere vorrei dirvi questo aforisma, che è un po' la nostra missione, quello di rivolgerci verso la luce per poter illuminare, essere illuminati e illuminare. E l'aforisma dice così: porta il tuo viso verso il sole e le ombre cadranno dietro di te. Quindi, tradotto, porta il tuo viso verso Cristo e tutte le cose negative cadranno dietro di te. Tutte le ombre, tutte le tenebre, tutti i pensieri bui che ti rattristano cadranno dietro di te. Buona giornata.